L'abbigliamento è il biglietto da visita di una persona, al punto che si può dire «dimmi come ti vesti» e ti dirò chi sei. L'abbigliamento è anche la prima cosa che si nota, infatti prima di osservarne il viso, più facilmente ci salta all'occhio una forma rivestita da un abito, se questo è corto o lungo, se è leggero o pesante. E, spesso, questo abito ci porta anche a intuire la nazionalità della persona in questione. Quando essa segue i costumi del suo paese, il vestito rivela anche la morale di una persona. Ne abbiamo un esempio dalle prostitute, che in molti luoghi, dove la moralità non ha più un freno, per attirare dei clienti cercano di mettere in mostra il loro corpo il più possibile, mentre nelle culture dove regnava un senso del pudore più forte, il vestito di queste donne era tale da permettere a un uomo di riconoscerle senza indugi. Troviamo una descrizione di tale usanza nella Bibbia, dove un figlio di Giacobbe, di nome Giuda, vede una donna con il viso coperto e la considera una prostituta. Genesi 38.15. Il fatto che una donna dell'Oriente migliaia di anni fa si coprisse il volto per voler fare sapere di essere una prostituta è molto significativo per coloro che sostengono che, secondo la cultura orientale, la donna debba coprirsi il capo o coprirsi totalmente il volto come segno di un certo pudore. Niente da ridire sull'abbigliamento delle donne orientali, ma è molto difficile sostenere che questa usanza possa scaturire da una cultura biblica. È vero che nella parola di Dio viene narrato l'episodio nel quale Rebecca come seppe che l'uomo che le veniva incontro era Isacco, cioè il suo futuro marito, o meno si coprì il volto con un velo, ma questo gesto era un segno di umiltà, di modestia e di sottomissione. Ma ciò non sta a significare che sia una dimostrazione che la donna deve coprirsi il volto quando è in pubblico. Infatti, se Rebecca si coprì il volto con un velo quando vide per la prima volta suo marito, ciò dimostra che, non avendolo indossato prima, ella si fosse mostrata a tutti coloro che erano nella carovana. Il velo con cui si coprì Rebecca prova esattamente il contrario a coloro che sostengono che la donna debba avere il viso coperto in pubblico e, caso mai, dall'episodio di Rebecca si dovrebbe concludere che la donna debba coprirsi il volto quando è davanti a suo marito e non davanti agli altri. Ma sono convinto che nessun marito accetterebbe una simile interpretazione. Così l'abbigliamento non è un accessorio di poco conto, soprattutto all'inizio del XXI secolo, dove le due culture, islamica e occidentale, non riescono sempre a comprendersi in merito a questo argomento. Ogni popolo ha il diritto di vestirsi come crede bene, ma è cosa saggia non giustificare le proprie convinzioni imputandole a dottrine religiose. Se non possiamo far valere i nostri costumi nel vestire basandoci su elementi religiosi, questo non significa che la parola di Dio non abbia nulla da dire in merito all'abbigliamento, perché con una certa sorpresa noteremo che a Dio interessa come ci vestiamo e che getta un principio che è valido per ogni razza. L'argomento dell'abbigliamento è affrontato sia dall'Apostolo Paolo sia dall'Apostolo Pietro. L'Apostolo Paolo si riferisce all'abbigliamento femminile mentre sta dando disposizioni in merito alla preghiera. Questo è già un sintomo di come il cristianesimo consideri il vestito in generale e soprattutto quello femminile. Esso non è oggetto di conversazioni puramente accademiche, ma deve essere lo specchio di un'anima che ha un rapporto personale con il suo creatore. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira e dispute. Similmente le donne si vestano in modo decoroso, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. 1 Timoteo 2.8.10. Non bisogna mai dimenticare che la razza umana si veste, perché, dopo la disubbidienza di Adamo ed Eva, e si torna sempre lì, prova vergogna nel far vedere la propria nudità. Quindi il vestito è innanzitutto un mezzo per togliere una vergogna, non per attirare l'attenzione degli altri. Certo, vestire con buon gusto non è sbagliato. Dio ci dà anche il dono di fare le cose con gusto e buon senso. Ma quando l'abito diventa uno strumento per sedurre, attirare l'attenzione, incoraggiare la nostra vanità o per superare un complesso riguardante sia l'aspetto fisico sia l'inferiorità sociale, allora noi perdiamo di vista lo scopo per cui ci vestiamo. Sono pienamente d'accordo con chi vede il ruolo femminile un fattore determinante per la morale della società, perché, come ha scritto qualcuno, è la donna che stabilisce gli standard. Se essa si offre troppo liberamente con la sua familiarità con l'uomo, con la sua libertà nella conversazione, con l'eccessivo trucco o con l'esposizione del suo corpo, l'uomo prenderà tutto questo come un invito a prendere l'iniziativa. Se essa prostituisce il suo dono di femminilità, l'uomo sarà tentato di abbandonare i suoi standard per misurarsi con quelli di lei. C.G. Scorer, la Bibbia e il sesso. Oggi, chi non vive di idealismi sa che questo è vero. Non molto diverso è ciò che scrive l'Apostolo Pietro, mettendo l'abbigliamento femminile in relazione ad una condotta, accompagnata da un santo timore di Dio e come testimonianza per chi è incredulo. Similmente voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti come Sara, che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore, di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. 1 Pietro 3, 1 a 6. Dio non vieta alle donne di portare oggetti utili ad esaltare la propria femminilità, ma ordina alle donne di vestirsi, senza avere l'intenzione di vantarsi o di sedurre. Purtroppo, pochi genitori hanno compreso il fine di tale ordine divino. Per questo le loro figlie vanno in giro mostrando con orgoglio parti del corpo che, in verità, andrebbero coperte. Scriveva una mamma in un periodico. Sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non ci è nessuna ragione plausibile che una ragazza mostri l'ombelico a tutti i passanti e che porti gonne con spacchi che permettono di vedere il colore delle sue mutande. Questa riflessione ne chiama un'altra, che troviamo nell'eccellente libro Quanto siamo salvati di Mike Brown. Noi abbiamo conformato i nostri valori ai modelli costantemente in declino della nostra società per così tanto tempo, che non realizziamo nemmeno quanto siamo caduti in basso. Prendiamo l'esempio del vestire modesto. Alla fine del secolo scorso, quando le persone andavano in spiaggia, erano praticamente coperte dalla testa ai piedi. Da allora, a poco, sempre più pelle è stata messa in mostra fino ai nostri giorni, nei quali va bene pressoché tutto. Con quanta libertà ci esponiamo in maniera così provocante? Noi ci stiamo conformando ai modelli del mondo. E cosa faremo se il nostro paese legalizzerà il nudismo? Continueremo a frequentare quelle spiagge? Chi desidera onorare Dio nel vestire, osservi quali abiti indossa una donna di 70 anni timorata di Dio, perché, a quell'età, la vanità della gioventù è svanita. Non si vuole imporre ad una giovane di vestirsi come un'anziana e di rinunciare a graziosi vestiti, ma il modo di vestirsi di un'anziana può essere di esempio. Occorre anche riconoscere che alcune ragazze a volte hanno un comportamento seducente senza rendersene conto. Non lo fanno per malignità, ma perché non sono coscienti di ciò che provocano nell'uomo. Me ne sono reso conto parlando molto francamente con le ragazze e ho notato che, una volta spiegate loro le cose, quelle semplici e oneste abbandonavano atteggiamenti, costumi e discorsi che avevano sino a ora ritenuti innocui. Una buona terapia per debellare facili costumi sarebbe che le donne più mature, anziché criticare o mormorare, parlassero con le più giovani molto schiettamente. Se non siano noi ad informare le giovani, sarà il mondo a deformarle. Ecco quindi che un vestito decoroso è quanto mai necessario. E se una ragazza ha vestiti provocanti, seducenti o, come capita a volte, non ha abbastanza vestiti addosso, non si stupisca se un ragazzo tenta di andare oltre i limiti. L'invito è fatto col vestito, non con le parole. Per quanto riguarda invece l'ordine di Dio, che si trova nel libro del Deuteronomio in merito al vestire, occorre non stravolgere il senso del comandamento. La donna non indosserà abiti da uomo, né l'uomo indosserà abiti da donna, perché chiunque fa tali cose è spregevole all'Eterno, il tuo Dio. 22.5. L'ordine dell'Eterno non è tanto che la donna non può portare i pantaloni o l'uomo non può portare la gonna, perché in tal caso gli scozzesi che portano una gonna sarebbero tutti condannati, ma il principio di Dio è un principio creazionale. L'Eterno ha creato due esseri viventi a sua immagine e somiglianza, cioè un maschio e una femmina. Perciò qualsiasi cosa indossino l'uomo e la donna si deve notare a quale sesso essi appartengono. È la promiscuità che Dio ha in odio, come del resto odia chi usa il vestito come mezzo per scoprirsi anziché coprirsi. Infine, in merito all'abbigliamento, vi è un comandamento nella legge di Dio dato al popolo di Israele che personalmente ritengo valido non solo per la donna, ma per tutti. Non porterai vestito di tessuto misto, fatto di lana e di lino. Deuteronomio 22.9. Se qualcuno considera sorpassato quest'ordine di Dio e non valevole per oggi, non vi è nulla di male. Ma a mio avviso quello che l'Eterno ha detto non era solo una regola per il popolo di Israele, che è abolito con la venuta di Cristo, ma quest'ordine nasconde anche una regola per la salute. Non è una novità che la lana e il lino producano sul corpo due effetti diversi per la diversa componente di tessuto. Mescolandoli non se ne riceve il bene che recano singolarmente. Sempre, a mio avviso, sarebbe opportuno che sulla pelle la lana e il lino siano separati. Ma quello che importa è l'abbigliamento della donna, dal quale ormai gli uomini hanno imparato a trarre un vantaggio economico anziché un vantaggio morale, così stiamo raccogliendo ciò che si semina, e cioè un abbigliamento che produce inquietudine. Come siamo poco intelligenti. Gennaio 2007, Ellero.